Sono le 15 e 21 minuti di sabato 29 giugno 2024. E normalmente bisognerebbe aprire con una di quelle frasi classiche del tipo: non si sono ancora spenti gli echi della liberazione di Assange. E invece no, tocca dire il contrario, si sono proprio spenti gli echi, perché questa è una specie di glitch nel racconto dominante. La vicenda di Assange è una cosa di cui si parla quando proprio se ne deve parlare, e quando se ne deve parlare, tipo per esempio che cambia una sua condizione di fondo, cioè da persona detenuta in un carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna a una condizione di libertà, e scusate se a me questa sembra una notizia, poi però subito dopo o si smette di parlarne, oppure c'è tutta una categoria di Assange bashers, mi verrebbe da chiamarli, cioè di hater di Assange, di odiatori seriali di WikiLeaks e di tutto quello che questi signori hanno fatto. E per non fare nomi parlo di personaggi come Marta Ottaviani, Gianni Riotta, che sfiora a volte il folcloristico, Stefano Feltri, che dovrebbe essere invece il lato serio, ma purtroppo appunto vediamo. Per esempio, io ho letto anche un articolo di Francesco Costa sul Post, che dovrebbe essere un posto dove si sa quali sono le notizie e quali no, e invece che cosa sta passando? Che cosa si prova a far passare? Che la notizia non è la sua liberazione, cioè io credo che le persone stiano reagendo al fatto che lui adesso è libero e prima non lo era, perdonatemi, si può anche credo verificare. No, la notizia è che lui si è dichiarato colpevole, senza poi aggiungere nessun elementare dato di contesto, no? Marco Congiu, per esempio, in un Twitter ha proprio detto: no ragazzi, non avete capito qual è la notizia. La notizia è che Assange si è dichiarato colpevole, punto. Senza aggiungere che si trattava di dichiararsi colpevole per uno dei, credo, 16 capi di imputazione, e tra l'altro l'unico di cui io credo che Assange vada molto fiero, e cioè il fatto di aver divulgato informazioni che secondo lui erano di interesse pubblico ed erano appunto delle notizie. Ne deduco che Marco Congiu e gli altri personaggi che ho citato prima non considerano evidentemente notizie il fatto che vengano uccisi civili inermi in modo indiscriminato, come mostrato dai video divulgati da WikiLeaks ai tempi, diciamo, della guerra in Iraq, e tantissime altre, diciamo così, mostruosità che denunciano il livello, diciamo, di degrado delle nostre democrazie occidentali. Se vogliamo garantire quel poco di democrazia che c'è, io credo che non dobbiamo sostenere le degenerazioni, ma appunto denunciarle. A questo servirebbe il giornalismo. WikiLeaks ha fatto giornalismo. Questi signori non mi sembra che lo stiano facendo, né prima, evidentemente, non sostenendo questa forma di disclosure, né adesso, cercando di insegnare a noi che cos'è una notizia. Ci stiamo facendo dire che cos'è una notizia da persone che non avrebbero rivelato i leaks. Non credo ci sia veramente nient'altro da aggiungere, perché siete troppo intelligenti. Non dico voi che ascoltate questo podcast, ma tutte le persone che riescono a fare 1 più 1, 2 più 2 per trarne le debite conclusioni.